Incontri di Gianfranco Fabi. Andare, camminare, lavorare. Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buona domenica a tutti. Con queste note, forse non molti l'avranno riconosciuta, è Piero Ciampi, un cantautore degli anni 60, fine degli anni 60, è stato scelto da un suo omonimo, almeno di nome, Piero Ignazi, che abbiamo oggi qui con noi. Buongiorno professor Ignazi. Buongiorno. Professor Ignazi è docente di politica comparata all'Università di Studi di Bologna, direttore della rivista di studi politici, rivista politico-sociale Il Mulino, editorialista dell'Espresso e del Sole 24 Ore, un grande esperto di politica. Allora, Piero Ignazi, perché Piero Ciampi? Beh, è un cantautore di grande fascino che ha fatto alcune canzoni struggenti sul piano dei sentimenti e anche un po' di quel genere dei cantautori maledetti che spesso non hanno riconoscimenti in vita e forse ne hanno qualcosa in più dopo. Andare, camminare, lavorare, sono forse tre incoraggiamenti sempre attuali. Sì, senza esagerare ovviamente, perché poi nella canzone ci sono altri elementi in cui a forza di andare, camminare, lavorare, poi non si riesce a capire bene dove si va in realtà, cosa si va a fare e ci si dimentica anche con chi si va. E questo è importante in una realtà politica come l'Italia, una realtà politica complessa. Qualcuno diceva che la politica italiana è difficile da comprendere e ancora più difficile da gestire. È possibile fare politica in Italia? Ovviamente sì, certo che è possibile. Noi abbiamo alcune particolarità. Le avevamo prima degli anni 90, perché avevamo la particolarità di avere un grandissimo partito comunista, con tutti i ritardi che questo ha comportato nello sviluppo di questo paese su molti piani. E poi le abbiamo oggi, particolarità con la presenza appunto al governo di formazioni che in altri paesi di solito sono tenute un po' ai margini dell'area governativa, e anche con, come sappiamo, un problema irrisolto tuttora, il conflitto di interessi del nostro Presidente del Consiglio. Quindi abbiamo alcuni aspetti peculiari ancora oggi che ci trasciniamo dietro, e questo ci fa sempre osservare, ci fa sempre vedere da parte degli analisti stranieri come qualcosa di un po' diverso, di un po' eccentrico, ma su questi aspetti, non poi su altri. Indubbiamente forse in Italia si ha poco la percezione che hanno all'estero di noi, o molto spesso questa percezione è un po' evidenziata, un po' caricata. Qual è lei? Molto spesso è nelle università straniere, che cosa pensano l'elite, ma soprattutto i politici, l'università, gli universitari di questo paese, un paese che comunque se la cava sempre? Dunque, sì, ho avuto occasione negli ultimi anni, con una frequenza molto, molto cresciuta rispetto al passato, di passare tempo all'estero, in istituzioni universitarie, di ricerca, a contatto quindi con, però non solo, diciamo, componenti della classe intellettuale, ma anche un po' della classe dirigente in senso lato di questi paesi, soprattutto in Gran Bretagna e in Francia. E in effetti c'è sempre una grande ammirazione, un grande amore, affetto per tante cose che questo paese ha espresso, però ci sono anche dei momenti di sconcerto per molti aspetti della nostra politica contemporanea. C'è veramente a volte una sorta di leitmotiv che viene ripetuto, che ma com'è possibile che da voi succedano queste altre cose, e sono un po' legate a quelle caratteristiche peculiari che di cui facevo riferimento prima. In fondo la prima repubblica è finita, ma la seconda non è ancora cominciata. Si potrebbe spiegare così la transizione italiana? Sì, anche se io non ho mai parlato di seconda repubblica, perché insomma in termini un po' più, diciamo, tecnici, c'è una nuova repubblica, c'è una nuova costituzione, un nuovo assetto di poteri. I poteri sono rimasti esattamente gli stessi, non c'è nulla che sia cambiato in maniera significativa. Le uniche cose che sono cambiate più volte in realtà è il sistema elettorale. Quindi, anche i partiti, in fondo, assolutamente, certo. Prima del 1990-92 il Parlamento era completamente diverso. Di partiti che c'erano allora non ce n'è probabilmente nessuno. Beh, no, ce n'è rimasto uno, che è la Lega Nord. Sì, che però era nata da pochi anni, peraltro. Sì, infatti è più una cosa di curiosità che altro, ovviamente. No, c'è stato un rivoluzionamento assoluto, su questo non c'è dubbio. Quindi il sistema partitico certamente è cambiato profondamente, però quando si parla di nuova Repubblica si parla sempre di assetti costituzionali, quindi se c'è un cambiamento nei poteri, nei rapporti di potere tra Parlamento e Esecutivo, se rispetto al ruolo della garanzia di un Presidente della Repubblica oppure di controllo di costituzionalità, se cambiano quindi queste cose, allora sì, c'è un nuovo assetto, una nuova Repubblica. No, c'è stato uno dei più grandi sconvolgimenti del sistema partitico che l'Europa occidentale abbia conosciuto dal dopoguerra. Poi questo non c'è dubbio alcuno, in termini tecnici la volatilità elettorale che c'è stata nel 94 ha solo un altro precedente nella storia europea, quindi in effetti la rivoluzione c'è stata tutto, però sul piano dei partiti, non sul piano degli assetti istituzionali. Quindi da una parte sul piano in teoria della politica, però la politica invece ha avuto una sua continuità, nonostante sia stata interpretata da partiti diversi. Dipende. Direi che io farei fatica a dare un giudizio univoco su questo aspetto, perché certamente alcune cose sono cambiate e purtroppo non sono cambiate in meglio, per esempio per quanto riguarda lo stile politico. Vale a dire, lo stile politico è diventato estremamente più aspro, più delegittimante, più violento anche nei termini, più greve per molti aspetti, e espressioni che non si sarebbero nemmeno immaginate negli decenni precedenti invece sono diventate uso corrente oggi, e questo ha provocato anche una maggiore radicalizzazione del conflitto politico. Quindi quella che maestro di tutti noi politologi Giovanni Sartori definisce la temperatura ideologica di un sistema è certamente alzata, e anche la distanza ideologica dai partiti è rimasta molto alta. Quindi da questo punto di vista certamente la politica ha avviato un processo diverso rispetto a quello che stava sperimentando alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. Incontri. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canini, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. E ancora con queste note, con questo invito di Piero Ciampi, un cantatore degli anni 60, proseguiamo il nostro incontro con Piero Ignazi, politologo, direttore della rivista Il Mulino, editorialista dell'Espresso e del Sole 24 Ore, professore di economia comparata all'Università degli Studi di Bologna. Parlavamo di politica nella prima parte, di questa transizione italiana, di un cambiamento che c'è stato molto forte, radicale nel sistema dei partiti, un cambiamento che non c'è stato nel sistema istituzionale, anche se qualche aggiustamento è avvenuto e qualche aggiustamento è stato e viene proposto in questo periodo. Ecco, una transizione incompiuta, ma la politica italiana sa dove sta andando, professor Ignazi. Ma io credo siamo alla vigilia in realtà di ulteriori profondi cambiamenti, nel senso che non tanto sul piano istituzionale, qui vedo in realtà una grande anche diffidenza, come ci dicono molti sondaggi, da parte dei cittadini a modificare l'impalcatura complessiva del rapporto istituzionale. Anche sul federalismo non credo che alla fine ne sortirà granché. Credo però che da un punto di vista dei rapporti politici all'interno dei vari partiti, la configurazione dei partiti così come sono adesso, assisteremo di nuovo probabilmente a un altro Big Bang, sia a destra che a sinistra, ma soprattutto nel fronte destro, quello che si è costituito prima con i cambiamenti dell'inizio dei 90 e poi ultimamente con la nascita del PDL, probabilmente anche lì ancora di più che non nel Partito Democratico si registrano tensioni crescenti e il cemento costituito dalla figura di Silvio Berlusconi probabilmente non riesce più ad avere quella presa che ha avuto fino ad ora, e è probabile che assisteremo a una sorta di ricomposizione del fronte destro. Anche sul fronte sinistro, peraltro, qualche problema non manca, partendo appunto dalle polemiche banali su come chiamarsi o come richiamarsi, alle polemiche più di fondo su quale politica fare, su come gestire questa fase di opposizione. Ecco, il Mulino è stato per anni un laboratorio anche di confronto all'interno di un'area che penso che non sia sbagliato definire un po' di sinistra, indubbiamente. E quindi cosa, che aria si respira all'interno di coloro che ruotano attorno a questo centro di interesse, centro politico, centro anche di dibattito culturale e politico? Ma nostra preoccupazione ovviamente è quella di evitare due rischi che secondo noi si profilano in maniera abbastanza chiara. Vale a dire, uno è il rischio del populismo, quindi è il rischio di considerare le istituzioni, le regole, i meccanismi di rappresentanza come qualcosa di obsoleto, qualcosa che si può gettare alle ortiche, e di affidarsi invece agli elementi salvifici dell'uomo della provvidenza, del cavaliere immacolato o meno, e quindi di saltare un po' tutti quelli che sono stati invece nella storia meccanismi e le istituzioni che hanno assicurato in altri paesi il buon funzionamento della democrazia. Questo è il primo rischio. Il secondo rischio è un rischio più sottile, ed è il rischio in realtà del distacco dalla vita civile, la vita civica, che non si esprime solo sul piano politico in realtà, ma si esprime anche proprio nei comportamenti quotidiani dei cittadini, in questa sorta di estensione di quella interpretazione che era lo spazio pubblico, uno spazio dove tutti possono intervenire calpestando gli altri, di sostanzialmente una caduta verticale di civismo. Ecco, questo è la mancanza di rispetto per gli altri. E poi anche un certo senso di legalità che è venuto un po' diminuendo, quasi, non dico scomparendo, però una certa quasi per necessità, di fronte a uno Stato viene descritto come uno Stato che è un coacervo di leggi, di istruzioni, di procedure, di compiti da fare, allora la fuga verso l'illegalità, l'evasione fiscale, una certa legittimazione verso questi comportamenti è cresciuta negli ultimi tempi. Il problema del fai da te, nel senso che di fronte appunto a uno Stato inefficiente, che storicamente è sempre stato meno efficiente di altri Stati che noi abbiamo vicini, ovviamente la risposta è stata, beh, insomma, arrangiatevi, fate voi, sopravvivete comunque alle difficoltà che vi vengono imposte da chi in realtà dovrebbe invece facilitare la vita. Quindi ovviamente esempi di scarsa virtù da parte di chi ci governa hanno un impatto devastante sui cittadini. E quindi questi fenomeni di corruzione sono qualcosa che minano alla radice anche la stessa credibilità della politica, e quindi quello che dicevo, un po' il distacco tra i cittadini e la politica, che non si riconoscono nella politica ma trovano nella politica un alibi per certi comportamenti. La prospettiva dovrebbe essere quella di un recupero di etica, in fondo, di etica della politica. Ed è possibile parlare di etica della politica? Assolutamente, certo. Doveroso. Non c'è dubbio. E io concordo pienamente, perché credo che i problemi appunto che anche noi nel nostro piccolo, nella nostra attività dell'Associazione del Mulino, della rivista e delle altre anche produzioni della casa editrice, cerchiamo di mettere alcuni tasselli di informazione, di formazione anche di un'opinione pubblica che sia consapevole di quanto il degrado etico di questo paese sia avanzato. Questa è un'altra delle cose che viene sottolineata spesso dagli osservatori stranieri, perché di fronte a determinati comportamenti di solito la reazione della società civile in questi paesi è veramente talmente ferma da, certo, imporre delle sanzioni. Certo, di ministri che si dimettono qualche volta avviene, però indubbiamente... Dopo aver sollecitato in maniera molto forte. Ecco, tornando un po' al Mulino, il Mulino è stato negli anni anche un esempio di rapporto costruttivo tra l'area cattolica e l'area più propriamente di sinistra, cosa che poi ha avuto uno sbocco nella creazione del Partito Democratico, in cui qualche tensione proprio tra queste due componenti c'è. Che cosa può cementare questa invece questa alleanza o questa unione o questa prospettiva strategica unitaria? Sì, io farei però una piccolissima precisazione per quanto riguarda, diciamo, la definizione culturale politica del Mulino, che storicamente nasce come incontro tra liberali, cattolici e socialisti riformisti dell'epoca, proprio per trovare un terreno d'intesa, per dialogare, per discutere, insomma, per dimostrare che anche su posizioni diverse si poteva tranquillamente convivere partendo da posizioni diverse. E queste tre anime sono sempre rimaste, hanno sempre innervato l'associazione Mulino e sono state espresse variamente dal lavoro della rivista. Quindi c'è una, direi, non è soltanto sinistra e cattolici democratici, ma c'è anche una forte componente liberale, a cui anch'io personalmente mi richiamo, quindi è un po' più variegato. Certamente, se poi passiamo invece all'aspetto, diciamo, politico, al fronte politico, il Partito Democratico è nato male. E quando una formazione nasce male, nasce senza, mettendo sotto il tappeto una serie di problemi, poi alla fine questi spuntano fuori. Quindi, è andato male perché è partito dall'alto più che dal basso? Questo senz'altro perché ha rifiutato tutte le proposte che c'erano di fare una cosa che nascesse dal basso attraverso partiti regionali che poi si federavano, insomma, e quindi con un processo fatto venire dal basso, perché in realtà tra molte ricerche dimostravano che tra gli elettori simpatizzanti c'era questo desiderio di creare una formazione politica nuova, quindi questo c'era, doveva però essere alimentato soprattutto di alcuni contributi, alcune linee guida da un punto di vista, diciamo, culturale, di interpretazione, eccetera, molto più solidi di quelli che non ha avuto. Ecco, perché c'è anche una realtà da interpretare, una realtà italiana che è ormai fatta di piccole e medie imprese, fatta di professionisti, di famose partite IVA, che è fatta di piccoli commercianti. Ecco, un richiamo forse storico alla vecchia classe operaia andrebbe superato, cosa che forse il PD e la sinistra non ha saputo fare. Sì e no, perché all'interno in realtà proprio del PD sono nate molte delle riflessioni sullo sviluppo della Terza Italia, cioè sono state accolte quelle riflessioni che venivano da ambienti culturali anche vicino al Mulino, cioè lo sviluppo della Terza Italia, vale a dire di quella dorsale che passava dal Veneto alle regioni centrali, poi alla dorsale adriatica, che era fatta appunto di piccole industrie, certo, con un rapporto molto sinergico e molto positivo con le amministrazioni locali, anche con la società civile che partecipava un po' allo sviluppo economico, ma anche poi civile. Quindi ci sono state dei contributi importanti di analisi e riflessione, tutta la parte sui distretti, tutta la definizione appunto di questi distretti economici, cioè di questi luoghi reticolari dove si concentrano alcuni tipi di produzione, quindi non è stato disattento, credo. Io direi il contrario, io direi che è stato invece meno attento a quello che succedeva invece nel mondo del lavoro, nel mondo del lavoro dipendente. Su questo credo che in Italia ci sia stata molta poca attenzione sulla realtà delle condizioni di lavoro dipendente di ogni livello, sia di quello dei colletti bianchi che quello dei colletti blu. Questo credo sia stato trascurato a favore di una grande attenzione, spesso però mal riposta, nei confronti invece del lavoro, delle professioni, del lavoro autonomo, del lavoro indipendente. Guardando in avanti, ci avviamo purtroppo verso la conclusione di questo incontro, cosa possiamo vedere? Un federalismo incompiuto? Ma il federalismo secondo me nemmeno iniziato, tutto sommato, neanche iniziato, quindi non so se ne vedremo qualche vagito nei prossimi mesi. Io ho l'impressione che non sarà difficile andare avanti in questa situazione economica con un progetto che peraltro non convince molti cittadini. Quindi un autunno di tensioni politiche? Beh sì, certamente. di tensioni politiche che non saranno provocate dall'opposizione, ma saranno interne ai partiti della maggioranza e tra i partiti della maggioranza. E allora godiamoci l'estate. Assolutamente. Grazie, io ringrazio Piero Ignazi, docente di economia comparata all'Università di Bologna, direttore della rivista Il Mulino, editorialista dell'Espresso del Sole 24 Ore, di essere stato con noi questa mattina. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione, ringrazio quanti ci hanno seguito. Questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it, così come tutti gli altri programmi di Radio 24. Buona domenica.